Ma sono cose che capitano. Alla Camera, la finanziaria 2004, avevano 100 deputati di maggioranza e furono messi sotto 4 volte. Tra l'altro, devo dire, nel merito l'emendamento era assolutamente condivisibile, peccato che non abbia copertura finanziaria. Ecco, per il voto finale di domani sera ci sono questi dubbi su Dini o sui dissidenti? Non venitelo a dirlo a me, io voterò la finanziaria.